Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata in cui, come sempre, venerdì andremo ad avere anche e avremo la nostra poco invidiabile classifica sugli sprechi della pubblica amministrazione. Riprenderemo anche un tema toccato di nuovo oggi dal neo presidente Confindustria Boccia, e mi riferisco alle dimensioni delle imprese. È tornato sul tema Boccia, che pure ha fatto presidente della piccola industria in precedenza, ha detto le dimensioni piccole non possono essere l'obiettivo e lo status di un'impresa. Piccola è una condizione da superare, le imprese devono crescere, la politica faccia il suo. Vi arriviamo tra un attimo, fornendo anche un esempio concreto di cosa si può fare, perché poi giustamente a livello istituzionale si lanciano i messaggi, poi però non riusciamo anche a raccontare iniziative concrete su questo che aiutino i piccoli imprenditori. Dicevo, parleremo della nostra poco invidiabile classifica e poi come sempre la borsa, meno 0,35% Milano, meno 0,21% Parigi, meno 0,06 praticamente invariata Francoforte, ancora Londra anch'essa invariata, mentre per quello che riguarda, oggi non è una giornata di quelle imperdibili, però per quello che riguarda i titoli faccio notare che va bene Moncler più 1,80, Boots Unicem più 1,60, Unipol più 1,40, Hugh Saint Apporter più 1,30, è negativa Saipem meno 2 come Fiat Chrysler, CNH meno 1,40, Luxottica meno 0,90%. In realtà noi parleremo di borsa, ma di titoli non ancora quotati, perché è arrivato anche il prezzo di Veneto Banca, e devo dire che chi si attendeva o sperava sostanzialmente che Veneto Banca non replicasse quanto già avvenuto con la Popolare di Vicenza, dove sostanzialmente è stato azzerato l'investimento totalmente, l'azione vale 0,1, beh, devo dire, è rimasto deluso. Anche per Veneto Banca sostanzialmente si è scelta il prezzo minimo, il pre-marketing vede 0,1 euro per azione, quindi tutte le azioni sostanzialmente fino al 99,75% del capitale per chi le ha avute a 40,42 euro, come nel caso di Vicenza per chi le ebbe a 62 euro, 63 euro, beh, l'azzeramento è di quasi il 100%, bruciati 5 miliardi di euro che si sommano, bruciati veri, non bruciati in borsa, distrutti veramente questi risparmi, e che si sommano ai 6 miliardi e 300 milioni della Popolare di Vicenza, e quindi il conto di quanto è stato bruciato dagli azionisti, che spesso, come sappiamo, erano obbligati o invitati insistentemente a comprare azioni se volevano accedere al mutuo, al prestito per l'impresa o quant'altro, addirittura gli veniva detto di comprarle perché tanto erano azioni sicure, o peggio ancora gli si davano prestiti però vincolati al fatto che con questo prestito comprassero le azioni, cioè la follia, tutto per poterle mettere a bilancio non come crediti inesigibili, come sofferenze, ma come attivi. Dicevo, se sommiamo i 5 miliardi di Veneto Banca con i 6 miliardi e 300 milioni di Popolare di Vicenza, nell'area geografica che va da Vicenza a Montebelluna a Treviso si sono bruciate queste due banche 11 miliardi e 300 milioni di euro, cioè quasi una manovra finanziaria di risparmi andati in fumo. È vero che è un'area ricca, ma una botta del genere metterebbe in ginocchio qualunque area economica, e devo dire da questo punto di vista poi l'aumento partirà il 6 giugno, insomma, ma il dato è lo commenteremo, è emblematico, perché ripeto, c'è stato chi ha sperato fino all'ultimo che con Veneto Banca non si replicasse per Popolare di Vicenza, è esattamente la stessa cosa. 349-238-6666 per i vostri sms e per WhatsApp, poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, rapidamente le altre notizie in breve. Restiamo sui temi italiani, partiamo da quelli internazionali come sempre, ma oggi c'è poco. Oggi in Francia tutti i depositi di carburante bloccati dagli oppositori della riforma del lavoro sono stati riaperti, tranne uno che è in sciopero. Ormai la penuria di carburante è arrivata a toccare il 20% dei distributori di Parigi, ma a questo punto è destinata a concludersi nelle prossime ore. Ancora dalla Cina, lo riferisce il South China Morning Post, veniamo a sapere che Foxconn, che è quello stabilimento enorme, monster, dove si producono per esempio i computer, i telefoni per Apple e Samsung, e in passato tristemente nota, ce ne occupiamo anche noi perché 3 anni fa lì partì un'ondata di sostanzialmente suicidi. Ebbene, ha sostituito in questi ultimi anni 60.000 impiegati con dei robot, ha in questo modo dimezzato la forza lavoro, portandola da 110.000 persone, tanti erano dipendenti in quell'enorme agglomerato di fabbriche, a 50.000. Ancora gli Stati Uniti, l'economia americana accelera, il PIL nel primo trimestre segna più 0,8% contro lo 0,5% inizialmente stimato, quindi un dato nettamente migliore rispetto alle attese. Questo di nuovo grazie ai consumi saliti di quasi il 2% nei primi 3 mesi dell'anno negli Stati Uniti, ma anche i profitti delle aziende che dopo due trimestri consecutivi di calo nei primi 3 mesi del 2016 sono cresciuti di quasi il 2%. E a questo punto gli analisti scommettono che l'economia a stelle e strisce potrebbe chiudere l'anno 2016 chiaramente con un rialzo del PIL del 2,5%, tant'è che c'è attesa per il discorso che oggi, questa sera, la numero uno della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, Janet Yellen, terrà all'Università di Harvard, perché si cercherà di capire se questi dati positivi non facciano rialeggiare la possibilità di un aumento dei tassi di interesse statunitensi già a giugno. Il confronto Russia, Unione Europea e Russia, Stati Uniti sulla vicenda ucraina. Allora, da questo punto di vista la Russia risponde alla richiesta, alle dichiarazioni del G7 sulla necessità di prolungare le sanzioni contro la Russia, le definisce assurde e dice: a questo punto noi siamo pronti a prolungare fino alla fine del 2017 l'embargo dei prodotti agroalimentari, quello che colpisce, lo ricordo ogni volta, in particolar modo l'Italia rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea, e visto che la Germania invece ha ottenuto per i fatti suoi di continuare a costruire il Nord Stream, il gasdotto del Nord con la Russia. E il premier russo Medvedev ha detto: beh, se le sanzioni verranno prorogate, anche noi siamo pronti ad andare avanti con le controsanzioni fino alla fine del 2017. L'Italia, dicevamo, oggi il ministro all'economia, Piercarlo Padoan, è intervenuto per i 40 anni di Sogei, ha detto che sostanzialmente la parola chiave in questi mesi non è tanto flessibilità del mercato del lavoro, ma la produttività. I dati che anche ieri ha diffuso il presidente, il neo presidente Confindustria a Boccia, erano emblematici. Insomma, noi abbiamo fatto più 1% di produttività in un periodo in cui altri paesi hanno fatto in media in Europa il 17% in più, la Germania il 30%, la Gran Bretagna il 34%, la Francia il 40% in più di produttività. E proprio sul tema della produttività si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore. Oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alberto Orioli, ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Produttività può essere la parola chiave per il rilancio delle relazioni industriali, come nel 93 fu l'abbattimento dell'inflazione o la riduzione dei tassi. La produttività misura l'efficienza di un'azienda, di un settore, ma anche di un intero paese, naturalmente. È il rapporto tra la quantità prodotta in un dato tempo e i costi dei mezzi di produzione per realizzarla. In sostanza deve essere qualcosa di simile a un totale, che sia più della somma delle singole parti. In Italia da 15 anni il rapporto tra PIL e ore lavorate ci dice che produciamo in quell'unità di tempo il corrispettivo di circa $36. È una somma che non cambia da quasi 15 anni, o cresce sia no dell'1%, contro il 17% di crescita media dei paesi a noi assimilabili. Vuol dire che il sistema è malato, ma aumentare la produttività è decisivo, perché significa creare ricchezza, fare innovazione e in sostanza spingere il paese verso una modernità. Lo scambio produttività-salari rilancia il ruolo dei contratti aziendali. C'è bisogno di rinnovare però il modello contrattuale. Oggi, in tempi di deflazione, siamo ormai al paradosso che i lavoratori dovrebbero addirittura restituire una parte degli aumenti percepiti. È importante che il governo faccia la sua parte con nuovi incentivi fiscali e contributivi. Oggi la decontribuzione sui premi è molto limitata e prevede anche un tetto massimo che ne limita l'efficacia. E anche questo è un modo per ridurre poi il famigerato cuneo fiscale che oggi separa la retribuzione netta di un lavoratore dal costo del lavoro pagato invece dall'impresa per retribuirlo. È una distanza che è tra le più ampie d'Europa. Per le parti sociali è una sfida importante che può valere addirittura il rilancio del paese. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E allora, visto che si parla di produttività e che appunto oggi di nuovo da Ancona appunto il neopresidente di Confindustria Boccia è tornato sulle riforme dicendo che il dibattito del paese su chi sta con chi o contro chi non ci appartiene, non ragioniamo per colori politici, noi ragioniamo di riforme e appoggeremo le riforme o no in funzione delle idee che ci faremo di queste riforme. E poi è tornato sul tema delle dimensioni piccole, quindi restiamo anche noi su questo, ma affrontandolo, come dicevo, con un aspetto un po' più operativo. Sì, riprendiamo le parole, un passaggio forse di maggiore autocritica verso il mondo delle imprese nella relazione ieri del neo presidente Confindustria Vincenzo Boccia. L'abbiamo a lungo commentata, a partire proprio da un passaggio in cui Boccia non ha lesinato anche, ma più che un'autocritica, un ricordare che cosa devono fare le imprese in questo periodo e non solo chiedere. E in particolar modo, oltre alla necessità di mettersi in filiera, di fare dei passaggi, dei salti di paradigma che non tutte, anzi solo poche hanno fatto numericamente parlando, ha anche detto: attenzione, qui il tema delle dimensioni non può essere a lungo ignorato. Il problema non è piccolo e bello, piccolo e brutto. Il problema non può essere piccolo, però la dimensione piccola non può essere l'obiettivo di un imprenditore. Può essere una fase della vita, ma l'obiettivo poi è crescere comunque, non dico diventare grandi, ma non restare piccoli. Perché ne parliamo? Perché già oggi ad Ancona, quindi in uno dei centri dal punto di vista distrettuale e produttivo della piccola e media impresa e di quel fenomeno che è andato sotto il nome della dorsale adriatica, simile come esplosione, diciamo, di impresa a quello del nord-est, oggi si è tenuto il primo Marketplace Day. Detto così, dice, che cosa sarà? Beh, lo chiediamo intanto al presidente della piccola industria, proprio delle Marche, Ancona Marche, Diego Mingarelli, buonasera. Buonasera, Marisoni. Allora, dicevo, voi avete tenuto un appuntamento, tra l'altro c'era questa mattina appunto anche il neo presidente di Confindustria Boccia, c'era il presidente della piccola industria di Confindustria Baban, ruolo ricoperto in precedenza proprio da Boccia, ma come ricordavo questo non gli ha sostanzialmente impedito di criticare quando la dimensione è troppo piccola. Che cosa avete fatto e qual è l'obiettivo? La crescita delle nostre imprese. Noi siamo perfettamente consapevoli che essere piccoli è uno stato, una fase di un'azienda, quindi noi abbiamo messo insieme tanti imprenditori che hanno fatto conoscenza tra di loro per quella che secondo noi deve essere una Confindustria che guarda la cultura impresa, le relazioni, una forma nuova di rappresentanza. Ma non ci siamo limitati a contaminare soltanto gli imprenditori tra loro, abbiamo invitato l'università. Avevamo una piazza dell'innovazione in cui si conosceva la manifattura del futuro. Oltre a questo abbiamo portato tante delegazioni internazionali per aprire una finestra sul mondo e abbiamo avuto degli attori importanti, degli interlocutori del mondo del credito. Scusi, ma in cosa consisteva esattamente questo evento? In cosa consiste? È un grande expo dove tutte le aziende possono conoscersi tra loro, ma senza barriere, quindi con tanti... Ma sono aziende marchigiane, immagino? È un grande patto del territorio, principalmente marchigiane, ma abbiamo anche altre aziende da oltre. E quanti desk sono presenti? Abbiamo avuto 500 desk, 500 tavoli, ma più di 2000 imprenditori presenti, un bel numero di presenze e era trasversale, avevamo la piccola, la media e la grande industria, proprio in quello che deve essere poi un patto di ecosistema. E avevamo moltissima manifattura, il 60% dei presenti sono manifatturieri, quindi un patto tra manifattura e servizi, e poi degli start-up, avevamo 50 start-up, cioè i fattori di innovazione del futuro che possono essere anche per le nostre aziende, in un'ottica di sistema, quindi la nuova azienda, ma anche l'azienda che ovviamente deve rinnovarsi. Ecco, lei ricordava che c'erano anche 25 stand di delegazioni estere provenienti dal settore meccanica, no? Cibo, sì. Abitat e impiantistica, la parte delle banche e la parte delle istituzioni, come era coperta? Le banche abbiamo fatto una cosa molto semplice, le abbiamo chiamate tutte, quindi le piccole aziende spesso non riescono a entrare in contatto con gli alti vertici, c'erano tutti gli alti vertici che potevano parlare con qualsiasi azienda, al di là delle dimensioni, in un'ottica di mettere in rete con il credito, con chi può fare esplodere le nostre eccellenze, perché senza credito queste aziende non potranno mai crescere. Ancora, quindi tutte le banche presenti, che cosa, chiedevo però delle istituzioni, cioè chi deve aiutare le imprese ad andare all'estero, Camera di Commercio, ICE, SACE, sì. SIMES? Ma allora no, sull'estero abbiamo portato, oltre agli operatori, ovviamente gli operatori proprio commerciali, abbiamo usato molto il network nostro di Confindustria. Confindustria, non tutti sanno che Confindustria è una rete che funziona molto bene, Confindustria all'estero, avevamo Confindustria Russia, Confindustria Serbia, Confindustria Romania, che possono fornire tutta una serie di aiuti alle aziende che vogliono internazionalizzarsi. A questo ovviamente avevamo anche la Camera di Commercio americana, alla Camera di Commercio canadese, guardavamo anche oltreoceano, oltre ai mercati più vicini, per le nostre realtà più grandi, quelle che hanno già compiuto un passo verso l'internazionalizzazione. Allora, senta, per concludere però, Mingarelli, la rifarete, ma soprattutto che cosa avete ottenuto in questa prima... Ho capito benissimo, l'obiettivo era fare incontrare imprese di diversi tipi tra di loro, dimensioni, ma anche settori, imprese col mondo bancario, imprese con soggetti esteri, delegazioni estere e imprese... anche con le istituzioni che devono aiutarle sui mercati esteri. Quale sembra che sia stato il lascito, diciamo così, e se la rifarete? Noi la rifaremo perché chi ha partecipato oggi, ho sentito molti amici imprenditori, erano veramente contenti. Ci aspettiamo un risultato, una crescita, un patto di territorio. Pensi, dall'edizione l'anno scorso, noi siamo alla terza edizione, molti imprenditori hanno cominciato a trovare dei clienti in questa piazza e quindi per alcune aziende, anche per le più piccole, è stato proprio un elemento di innovazione culturale, ma anche di crescita proprio del fatturato. Quindi con questa piazza, alla fine noi guardiamo al futuro, un ritorno al futuro, guardiamo al futuro riscoprendo una cosa, il passato, la piazza. In un mondo di tecnologia digitale abbiamo creato una piattaforma web che lavora 365 giorni l'anno. Il day... E però una piazza anche fisica, no, ma è chiarissimo. Fisico. A me interessava fare questo collegamento perché poi ne racconteremo anche altre, ma è importante poi vedere cosa concretamente si faccia, perché è chiaro che a livello istituzionale si tracciano le linee guida, poi vedere sul territorio chi si muove, con che sforzo si muove, in che logica si muove, a noi fa piacere, visto che appunto il venerdì non è una giornata dedicata necessariamente alle notizie positive. Grazie a Diego Mingarelli, presidente della piccola industria Ancona Marche. Dico non è una giornata necessariamente positiva perché adesso deve iniziare la classifica, ci sono tre casi così lunghi oggi nella top 5, nelle 5 sprechi della settimana che mi obbligheranno ad andare molto veloce, magari recuperiamo in un'altra puntata, un altro venerdì, casi minori, perché ho bisogno di parlare del numero 1 con esattezza, perché non ci si può credere. Comunque andiamo sul meteo e la pubblicità. Poi torniamo in diretta, la borsa chiuso con un meno 0,41%, 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. Focus Economia. La classifica della settimana. Allora, dicevo, dobbiamo andare un po' rapidi oggi, anche perché ho il primo e il secondo posto della classifica occupate da due cose, insomma. E quindi salterò a pie pari alcune notizie, le riprendiamo nelle prossime edizioni. Avevamo dei falsi ciechi che andavano a fare jogging per la città, pur essendo falsi ciechi dall'87, e adesso devono restituire dei soldi. Avevamo anche i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Asti, che in 13, ma sembra che l'inchiesta si stia allargando, timbravano e poi uscivano a fare la spesa. Ci hanno messo 6 mesi a beccarli. E anche sprechi della sanità, in cui sostanzialmente kit già comprati per i pazienti oncologici, invece che essere dati ai pazienti, sono stati rinvenuti nei cassonetti completamente inutilizzati. Però voglio concentrarmi, veramente, se no non ce la facciamo, su queste tre notizie. Partiamo da Firenze. Firenze. È là, Firenze. No, non c'è. Non è un attacco politico, ogni volta che si parla di Firenze, lo dico anche per le polemiche di quanto è successo sul Lungarno, di qualcuna responsabilità ce l'avrà. Comunque, no, qui la domanda è un po' diversa, ossia, visto che bisogna sempre dare l'esempio, chiedo col massimo rispetto ad Alberto Triola, che parliamo del Teatro del Maggio Fiorentino. Perché ne parliamo? Perché il Maggio Fiorentino è in crisi finanziaria, e da questo punto di vista si sta cercando di fare un risanamento economico finanziario del teatro e quant'altro. Il Teatro del Maggio comunque non riesce a uscire da una crisi. Quello che ci lascia oggettivamente senza parole è, con una quota di finanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo ancora bloccata, una situazione debitoria a dir poco problematica, dove ormai praticamente le difficoltà finanziarie sono quotidiane e non più di un'eventuale prospettiva, ma proprio un problema di conti quotidiano. Come si fa a giustificare l'aumento dello stipendio dei due dirigenti? E mi riferisco ad Alberto Triola, che tra l'altro è fedelissimo del sovrintendente di Firenze Francesco Bianchi, che ha fatto uno scatto di ruolo, cioè il Maggio è in dissesto finanziario, aspetta il Fondo Unico per lo Spettacolo, ma intanto, come sempre, questa è una pratica che abbiamo già raccontato, fanno gli scatti di ruoli dirigenti, da direttore operativo a direttore generale, e quindi da 110.000 euro più 22.000 di premio a 140.000 euro più 15.000 di premio. Stesso scatto anche per un altro dirigente, il responsabile dell'area tecnica e della sicurezza, Silvano Cova, passa da 80 a 100.000 euro l'anno. Senza premi, tra l'altro, in una situazione in cui l'intera orchestra del Maggio è platealmente ostile al sovrintendente, fino al punto che ne ha chiesto più volte la rimozione, e i sindacati sono a questo punto sul piede di guerra, anche perché hanno scoperto che questi due aumenti, ripeto, in una situazione di dissesto finanziario, non sono gli unici, perché sono stati aumentati gli stipendi dei dirigenti complessivamente, che sono 9, e che arrivano a costare solo i dirigenti 1.100.000 euro l'anno. Tutto normale. Bello che dal Maggio non vogliono commentare le cifre, hanno fatto solo notare che nel caso di Triola che il suo principale incarico resta il risanamento economico. Peggio mi sento, se questo ha l'incarico del risanamento economico e la prima cosa che fai, o la cosa principale che fai, è aumentargli lo stipendio, vorrei capire come raggiungerà l'obiettivo del risanamento economico. Comunque, andiamo avanti. Andiamo a un caso bellissimo, oggi è abbastanza variegata dal punto di vista geografico. Andiamo, il titolo potrebbe essere: chi vuole andare a Mattarello? Apriremo un concorso, chi vuole trasferirsi a Mattarello? Voi direte che mi guarda tecnico romano, ma che cavolo è Mattarello? Non è un posto del centro-sud, come potrebbe dire il nome, è un posto in provincia di Trento, è una campagna vera e propria. Apriamo un bando per sapere chi vuole trasferirsi nella campagna di Mattarello, perché che cosa è successo? È successo che prima la provincia di Trento, con i soldi anche dello Stato, ha espropriato un pezzo di terreno pagandolo 30 milioni di euro. Devo dire che una volta tanto il modo in cui questi terreni sono stati valutati, quindi espropriati agli agricoltori con un indennizzo, è stato particolarmente generoso, cioè con quotazioni con valori più alti rispetto al prezzo dell'ettaro di quelle attuali. Hanno espropriato un terreno, va bene, lo hanno poi ricoperto con una parte di materiale inerte, quindi detriti, con migliaia di camion provenienti dalla Valle di Fassa, dove era in corso lo scavo della galleria di Moena, e poi questo terreno espropriato e pagato doveva servire per creare la cittadella militare in Trentino. Piccolo problema, hanno cambiato idea. Hanno cambiato idea nel senso che c'è la revoca dell'esproprio, che quindi prevede di comunicare ufficialmente ai contadini ex proprietari che già hanno avuto il rimborso, il indennizzo anche salato, che i piani sono cambiati e che se vogliono possono ricomprarsi i terreni. Io vedo già il gesto dell'ombrello che è anche in Trentino, ma di moda. No, ma la cosa bellissima è questa, è un atto dovuto, non c'è nessuno che pensi realmente che a Mattarello qualcuno voglia riprendersi queste aree espropriate. Infatti intanto le hanno pagate tanto, l'esproprio è costato tanto a noi cittadini, figurati se uno va a ricomprarselo pagando quella cifra lì. Ma tra l'altro parte dell'area, a eccezione di quella bonificata con materiale inerte, è rimasta a disposizione degli agricoltori e dei contadini che continuano a coltivare la campagna e pagano un affitto alla provincia, quindi non ne può fregare nemmeno di ricomprarsi il terreno. Il problema è che adesso non si sa che cosa fare con sto Mattarello. Non è Mattarellum, è Mattarello, una cosa molto più prosaica. Allora, in provincia di Trento nessuno pensa appunto che questa revoca dello sfratto possa portare gli ex proprietari a ricomprarsi il terreno. Quindi si stanno interrogando. E allora le lettere sono pronte a partire, manderanno queste lettere in revoca dello sfratto, probabilmente riceveranno risposta negativa e entro 6 mesi la cosa si deve chiudere. Questo capitò perché all'inizio degli anni 2000 un'operazione concordata tra Stato e Provincia portò appunto l'ente pubblico ad acquistare 30 milioni di euro di campagna, perché lì dove bisognava spostare, bisognava creare la cittadella militare. Ora che la cittadella militare non si farà più, stanno disperatamente cercando di capire che cosa fare in quest'area. Pensate che c'è chi ha proposto di spostare a Mattarello il nuovo ospedale, di spostare a Mattarello lo stadio, di spostare a Mattarello qualunque altra grande opera pubblica della città, di spostare a Mattarello la suocera che ti sta sulle balle. Cioè non sanno cosa fare a Mattarello, anche perché l'intera operazione costa 30 milioni per i terreni, più altri 15 per realizzare in parte alcune palazzine, due palazzine con 36 alloggi a disposizione dei militari, e complessivamente, capito, c'è costata 45 milioni di euro, e la provincia vede un saldo a suo vantaggio, la provincia di Trento, di 27 milioni di euro. Seguiremo con attenzione la saga, chi andrà a Mattarello, cosa faranno a Mattarello, cosa faranno di Mattarello. Se qualcuno non sa dove andare, vada a Mattarello, ci vuole andare a tecnico a Mattarello, andate a Mattarello, c'è un'area che vale 30 milioni di euro di campi. Ma adesso andiamo al piatto forte, il motivo per cui ho dovuto correre sulla parte bassa della classifica, perché quando affronto questo tema ci metto un'ora a spiegarla, ma non voglio dilungarmi. Andiamo subito dai sul vincitore. And the winner is... Oh, torna, alle volte ritorno, torna come vincitore, non può che non è vincitore della classifica. Al primo posto l'ATAC, la più grande azienda municipalizzata d'Italia. L'ATAC, l'azienda di trasporti romana, ha 11.871 dipendenti, praticamente metà degli operai della Fiat in questo paese. Non sto scherzando, ride il tecnico, veramente, cioè, metà degli operai della Fiat fanno i dipendenti dell'ATAC, azienda di cui abbiamo parlato in ogni modo possibile. Vuoi per il numero di ore lavorate degli autisti, che è la metà di quelle di Milano, di Torino, di Napoli, al record negativo di tutta Italia. Vuoi per gli scioperi, vuoi per le malversazioni, per le tangenti, per la corruzione. Adesso parliamo di una vicenda che... Allora, come cavolo faccio a affrontarla? Mettiamola così. C'è un dossier anonimo che è arrivato all'ex assessore alla mobilità della giunta di Ignazio Marino, Stefano Esposito, che è un senatore del PD, e che ha girato la Procura della Repubblica di Roma. Contiene cose spaventose, cioè bambini, portati bambini via dalla macchina, cioè è un film dell'horror, ve ne cito solo due perché il resto non ce la faccio. Secondo voi, in quale paese, in quale società al mondo, compresi i paesi in via di sviluppo, può accadere che ci sia un dipendente di questa società che è in aspettativa, ma dirige la ditta privata che fornisce alla stessa società gomme per milioni di euro? Questo capita all'ATAC. All'ATAC chi forniva le gomme, adesso vi racconto anche le cifre, il fornitore si chiamava Gommer, molto, molto francese. Beh, era un dipendente dell'ATAC stessa, che era in aspettativa, un funzionario dell'ATAC, e si chiama Roberto Alviti, in aspettativa per motivi personali, te credo personali, dovevi fare gli affari con l'ATAC, più personali così. Ma la cosa più bella di Alviti, lei è un mito per noi, che quando gli è arrivata finalmente la lettera di licenziamento, lui ha risposto: ma perché mi mandate via? Alviti, adesso se vuole ci parliamo, apriamo un dibattito, come si diceva una volta, il Cineforum no. Allora, ma il punto è un altro, ma quanti sapevano del fatto che un dipendente in aspettativa dell'ATAC fornisse le gomme all'ATAC? Poi dice, magari le faccio risparmiare, senti un po' adesso. Allora, le gomme nel periodo 2013-2015, a fronte di un contratto full service, vuol dire tutto incluso, per le gomme degli autobus dell'ATAC dal valore di 8 milioni e 800 mila euro, l'ATAC è riuscita a spendere 16 milioni e 800 mila euro, 8 milioni in più di gomme, E non vi sto neanche a raccontare qual è il buco dell'ATAC come conti, ma anche se fosse in attivo non sarebbe giustificabile. Quindi ha speso il doppio di gomme. C'è addirittura un audit, quindi un'inchiesta interna, che spiega come per un parco di circa 12.000 pneumatici in 3 anni ne abbiano sostituiti 11.400 per usura e 15.000 per rottura. Adesso vediamo se ho capito. Il parco pneumatici di tutti gli autobus, di tutti i mezzi dell'ATAC è fatto di 12.000 pneumatici, siccome di solito sono... no, non si può dividere per 4, avete ragione, non dico cavolate, sono 12.000 pneumatici. In 3 anni ne hanno fatti fuori su 12.000, 26.000 per o usura o rottura. Adesso, anche nell'inchiesta interna hanno detto, vabbè che le strade di Roma fanno schifo in alcuni punti, però diciamo, nemmeno la situazione dell'asfalto e del manto stradale giustifica il fatto che in 3 anni tu arrivi a sostituire quasi 2 volte, più di 2 volte, tutto il parco pneumatici. Allora, che cosa c'è dietro? Beh, è ovvio che dietro ci sono 8 milioni di euro che ballano, perché invece che spendere 8 milioni e 800 mila, ne hai spesi 16 milioni e 800 mila. Quegli 8 milioni saranno una distrazione? Ma no, dai, è chiaro che lì qualcuno ci mangiava, e anche tanto, perché stiamo parlando di 8 milioni in più solo per i pneumatici in 2 anni. Comunque, pensate che la percorrenza media degli autobus è di 45.000 km l'anno, cioè dopo 45.000 km gli autobus a Roma devono cambiare le gomme. Sapete per quanto sono garantite queste gomme? Ecco, non è che tutti staranno nel centro storico, ma non è che nelle altre città d'Italia il manto stradale sia modello svizzero. La garanzia del fornitore in sede di gara è di 130.000 km, quindi io posso capire che magari qualcuno capiti, ma tu non puoi avere gomme che dopo 30.000, 20.000 chilometri sono da buttare via quando ti garantiscono 130.000 chilometri. Allora, solo nell'ultimo, poi c'è una cosa interessante, solo nell'ultimo anno precedente al rinnovo contrattuale, quando è iniziata a prevalere la paura di non beccare di nuovo il rinnovo del contratto per la Gommer, quindi 2012, incredibilmente nell'anno prima del rinnovo, quando scade il contratto, vengono sostituite 10.000 gomme per usura in un anno e 8.500 per rottura, cioè in un solo anno su 12.000 gomme totali vengono una gomma e mezza viene sostituita, 18.500 gomme nel 2012. Tu ti chiedi, ma perché ne lavorano poco gli autisti? Perché lo sai, per cambiare le gomme all'ATAC, no? E poi hanno comprato 5.000 gomme termiche. Ora io capisco tutto, è vero che a Roma ogni tanto nevica, però 5.000 gomme termiche a Roma. E dove ero rimasto? Mi sto perdendo. 5.000 gomme termiche e 337 nuovi autobus con altri 2.500 pneumatici già pagati con il mezzo. Per cui sono riusciti, è un miracolo, a pagare i nuovi autobus con incluso il prezzo delle gomme, ma allo stesso tempo hanno pagato anche il canone full service. Quindi nel 2012 vengono sostituite su 12.000 gomme dell'ATAC 10.000 gomme per usura, 8.500 per rottura, quindi alcune di queste gomme sostituite per usura si erano già rotte, perché se sono 19.000 su 12.000 in totale, il calcolo è presto fatto, più altre 2.500 pneumatici, nonostante in questi 337 autobus vi fosse il canone già pagato del full service. fa 20.000 gomme in un anno. Allora tu dici, ma come mai nessuno si è lamentato? Cioè l'ATAC perde a bocca di barile. Allora è chiaro che qui qualcuno ci guadagnava. È chiaro che in un'azienda dove tu non ti accorgi che c'è una ditta privata di un tuo dipendente in aspettativa che ti fornisce le gomme, è il delirio, è, voglio dire, il suc, è, non so nemmeno come definirlo. Ma forse, mi permetto di dire forse, c'è anche un mancato controllo, perché c'è forse una collusione tra i vari soggetti, e penso anche ai sindacati, che avrebbero tutto l'interesse nel denunciare per primi una gestione del genere dell'ATAC, visto che poi quando le cose vanno male e si tagliano i dipendenti, saltano i dipendenti. Allora, perché i sindacati non hanno mai parlato in maniera forte? Non lo so. Forse però c'entra anche il numero di ore concesse per l'agibilità sindacale. Sono state concesse nel 2015, come distacchi sindacali, 111.660 ore, 12.000 ore in più del monte a disposizione. Quest'anno si arriverà a 131.000 ore di distacchi sindacali retribuiti all'ATAC. Corrispondono al lavoro di 82 persone in un anno, ma ce ne rendiamo conto? O senza che poi questi sindacati si rendano mai conto di quanto poco lavorano gli autisti, di chi frega lo stipendio, dei fornitori, del parco gomme che viene cambiato praticamente una volta all'anno, delle spese che aumentano di 8 milioni di euro, cioè raddoppio di 8 milioni, non si accorge di una mazza nessuno. Però ci sono 131.000 ore di distacco sindacale nel 2015, con un costo per l'azienda di 3.772.000 euro. Vi sentite male? Abbiate pazienza, che vi faccio stare anche peggio. Praticamente nell'inchiesta interna risultano in distacco continuativo presso due sindacati CGIL e CISL tre dipendenti per i quali non vi è alcuna giustificazione a partire dal 2015, in seguito all'interruzione del rapporto associativo dell'ATAC con l'ASTRA, associazione delle aziende di trasporto. Cioè non devono essere lì, ma sono ancora lì. L'azienda se n'è accorta, devono accorgersi anche la CGIL e la CIS e rimandarli in azienda a lavorare, se avessero ammesso che l'abbiano mai fatto nella loro vita. E poi c'è la ciliegina sulla torta. Vedo il tecnico esausto perché deve prendere l'autobus. Aspetti un attimo, aspetta, siamo a Roma. Allora, secondo voi, cioè, esiste un'azienda al mondo dove, oltre che avere un dipendente di aspettativa che fa il fornitore delle gomme dell'azienda stessa, il dopo lavoro, cioè la mensa, viene gestita dai sindacati stessi? Sì, esiste, e si chiama ATAC, nel senso che praticamente i sindacati dell'ATAC gestiscono tutte le 18 mense dell'ATAC stessa, incassando dall'azienda 4.200.000 euro l'anno. Sono praticamente i 2 euro e 10 centesimi a cui si sommano i 2 euro e 10 centesimi pagati da ciascun dipendente, perché loro hanno prima uno stanziamento dell'azienda, poi il dipendente paga 2 euro e 10 centesimi. L'ATAC mette a disposizione gratis i locali, paga luce, gas, pulizia e tasse sui rifiuti. Il dopolavoro i sindacati gestiscono anche i bar aziendali e i 150 distributori di bevande e snack. Tutto dal 1974. CGL, CISL e UIL. Vi sembra normale che i sindacati di un'azienda al collasso, piena di corruzione, tangenti e quant'altro, gestiscano 18 mense aziendali, i distributori di macchinine e tutto il resto del dopolavoro? Non c'è un piccolissimo conflitto di interesse? Beh, comunque un applauso al nuovo modello delle relazioni industriali inaugurato dall'ATAC. E vai! Ah, anche caldo oggi qua. Dai, andiamo sul traffico, che gomme dell'ATAC permettendo, e poi commentiamo il caso virtuoso. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Traffico. Focus Economia. ATAC. Dai, no? Bellissimo, questa è l'ATAC. Ingegner Pierluigi Pinna, cofondatore di Abinsula, buonasera. Buonasera, salve a tutti. L'ha sentita la storia dell'ATAC? Sì, ho sentito. Allora, facciamo del così. Sistema di monitoraggio della flotta. Ecco, un sistema di monitoraggio delle tangenti, delle mazzette, mettiamo prima che della flotta. Comunque, lei resti con noi, perché lei è il caso virtuoso della settimana, dopo la classifica che ti mette una depressione. Portiamo imprenditori che si sono messi in gioco e hanno aperto un'attività negli ultimi anni, le cosiddette start-up, però voglio farla bene, quindi dopo il GR24 commenteremo anche lavoro, se poi parleremo di Veneto Banca a proposito di Robin Hood al contrario, meno 0,17% Milano, Veneto Banca, gli azionisti hanno perso tutto, 0,1% proposto per l'aumento di capitale, intanto però GR24. Il segnale orario vi è offerto da... Vivacissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in Digital Radio. State ascoltando un programma offerto da... Aruba, soluzioni cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non parlo più dell'Atac né di Cotral, mi scrivono molti romani, dicono guardate che la situazione dell'Atac e di Cotral, lo so, però noi continuiamo a raccontare e non è che li scoviamo in maniera strana dagli articoli di giornali, questa dalle gomme dei pneumatici e le 111.000 ore per distacchi sindacali che valgono lo stipendio di 82 persone, insomma si commentano da solo, dai. Invece ingegner Pierluigi Pinna, dicevo cofondatore di Abinsula, di nuovo buonasera. Buonasera. Quanti anni ha lei e dove opera e che cosa fa soprattutto Abinsula? Sì, allora io sono Pierluigi Pinna, ho 44 anni, sono uno dei soci fondatori dell'azienda Abinsula, nata nel 2012 da un'idea di 5 giovani ingegneri che dopo esperienze in campo nazionale e internazionale hanno deciso di aprire una propria realtà. E lei mi sembra sardo, capito bene? Sono sardo, sono di Sassari. Quindi l'azienda è situata a Sassari? Sì, infatti diciamo che anche il nome dell'azienda fa capire un po' le nostre origini. Infatti Abinsula vuol dire dall'isola e l'isola infatti era Sardegna. Abbiamo 3 sedi, una a Sassari, una a Cagliari e poi una a Torino. Uno dei soci è torinese. Che cosa fa Abinsula? Ok, allora Abinsula prima di tutto è una startup innovativa. Allo stato attuale conta su un team di oltre 50 ingegneri e siamo tra le prime startup italiane in termini di numero di dipendenti e di fatturato. Mm-hmm. Abbiamo fatturato che supera i 3 milioni di euro ultimamente. Qualche settimana fa abbiamo vinto il premio Italia Master Startup Award, denominato anche Startup. Vediamo cosa facciamo. Il nostro mercato di riferimento è lo sviluppo di software per microprocessori che ormai sono nel nostro quotidiano, li portiamo con noi nei nostri orologi, nei nostri dispositivi, nei nostri smartphone, oppure andiamo in giro con loro, con le nostre automobili. E in effetti il campo delle auto è proprio il nostro principale mercato, perché realizziamo il software per le cosiddette centraline. Le centraline delle automobili. Esatto, sì. In particolar modo il software per i sistemi di infotainment, quindi diciamo le auto hanno un sistema di intrattenimento dove uno può ascoltare la propria musica, oppure nelle auto moderne si può collegare. Ma anche per quello che vale il navigatore, posizionamento, esatto, GPS. Sì, sia il navigatore oppure magari collegarsi al proprio smartphone e usare i sistemi di streaming che adesso sono molto diffusi. Oppure anche utilizzare magari per trasmettere la diagnosi dei propri veicoli ai propri server. Facciamo delle scatole telematiche anche per le assicurazioni, sono quei dispositivi che vengono utilizzati magari per avere un controllo, appunto, come servirebbe ai mezzi dell'Attac, per vedere tutti gli automezzi pubblici e privati dove sono delle piattaforme informatiche che permettono, chiamano anche fleet management, che hanno dei dispositivi a bordo che mandano sempre dei dati. Per sapere dove è la tua flotta, no? Capire cosa fa l'autista, esatto, dove è bloccato, certo. Esatto, oppure se ci sono problemi relativi appunto alla diagnosi del veicolo. Per queste cose noi utilizziamo delle tecnologie open source, quindi basate sul codice libero. Su questo abbiamo basato anche il nostro prodotto, che si chiama Ability, che è un vero e proprio sistema operativo per le auto, per le centraline delle auto. Senta, a chi lo vendete come clienti? Sì, siamo fornitori diretti di clienti importanti nel campo automotive, come ad esempio la Magneti Marelli, oppure CNH Industrial per i mezzi pesanti. Ci è capitato di lavorare anche con Tatta, oppure con Continental. Diciamo questi sono i, alcuni sono... Beh, sono nomi importanti. Bosch, no? Con Bosch ancora no, si spera. Senta, abbiamo... Prego. Mi dica. Abbiamo lavorato, lavoriamo molto nel mercato tedesco con Continental. Con Continental, certo. Senta, voi siete partiti nel 2012, ho capito bene? Sì, esatto, siamo partiti nel 2012. Con che capitale e chi vi ha dato i soldi? No, allora, la BINFA è nata praticamente con i soldi privati dei soci. Una sera ci siamo riuniti, sì, abbiamo messo 2.000 euro a testa e siamo arrivati proprio al minimo sindacale per aprire un SRL, classici 10.000 euro. Da quel momento non abbiamo più ricevuto nessun capitale privato, abbiamo preso il primo lavoro sulla piattaforma LinkedIn, che è una piattaforma, una sorta di Facebook per gli imprenditori, LinkedIn. Con i primi lavori abbiamo fatto, abbiamo fatto un po' di cassa e abbiamo assunto un dipendente. Questo ha generato una sorta di volano per arrivare, diciamo, ai 50 dipendenti attuali. 50 siete adesso? Sì, adesso siamo 50. Come li avete assunti? Con che contratto? Il 90% sono contratti a tempo indeterminato. Indeterminato? Esatto, sì. Quindi avete usato anche il Jobs Act o la decontribuzione in questi anni? Abbiamo l'ultimo anno, nel 2015, diciamo. Beh, era l'anno in cui si poteva usare la decontribuzione. Sì, era l'anno. Quella massiccia da 8.000 euro. Senta, esatto. Non ho capito, i soldi 10.000 euro, un dipendente, ma qualcun altro poi vi ha dato dei soldi? Non so, banche, sì, capitato, enti locali? No, enti locali. In Sardegna c'è Sardegna Ricerche, che è un ente molto attivo, diciamo, nel finanziare i De Vincenti. Ha finanziato il nostro sistema operativo per auto che stavo raccontando prima, Verability. Abbiamo ricevuto nel 2014, vabbè, in diversi step, comunque diciamo abbiamo acquisito il bando nel 2014, un bando del valore di 1 milione di euro, di cui il 70% a fondo perduto. Un milione di euro, di cui il 70% non dovete nemmeno ridarlo, capito bene? Esatto. Beh, non è poco, mi scusi, però una domanda, ma qualche banca si sarà avvicinata? No. Diciamo che all'inizio le banche non credevano molto nelle start-up, perché è sinonimo di instabilità, e quindi quando avevamo raccontato la nostra idea non avevamo ricevuto nessun finanziamento, allora abbiamo deciso di andare con i nostri soldi. E adesso? Adesso abbiamo tante banche attorno che ci vogliono proporre tante cose che forse adesso non abbiamo più bisogno. Ma avete aperto una linea di credito o no con qualcuna di queste? Sì, abbiamo adesso diverse banche che gestiscono per un po' il flusso di cassa, però abbiamo chiuso l'anno scorso con un EBITDA diciamo elevato, quindi per adesso lavoriamo ancora con i nostri soldi, come abbiamo sempre fatto. Ecco, le prospettive per l'anno prossimo e i prossimi anni, e se siete già a break even, cioè a pareggio di bilancio, non mi sembra, avendo 50 dipendenti con 3 milioni, sono ancora pochi i soldi, cioè fatturato. No, siamo a break even perché abbiamo, diciamo, l'ultimo anno abbiamo messo, i 50 dipendenti sono relativi all'ultima parte del 2015, quindi la media del 2015 più o meno era sotto i 38-40 dipendenti. Mm-hmm. Quindi abbiamo chiuso tutti i bilanci in attivo dal 2012, l'ultimo anzi con l'EBITDA diciamo elevato. Questo. Per il futuro quest'anno come sperate di chiudere? Dovremmo raggiungere 4 milioni di euro di fatturato. Allora, guardi, Pinna, in bocca al lupo a lei, a Stefano Farina, Andrea Maddao e Andrea Sanna, tutti sono i suoi altri 4 soci, assieme a Paolo Dozz, che invece è torinese, e a tutti i 50 dipendenti, anche perché avete tutti tra i 25 e i 40 anni. Lo dico a chi continua a scrivermi sull'ATAC, e ogni volta che c'è la classifica, giustamente qualcuno scrive scappo dall'Italia, voglio andare via dall'Italia. Sì, l'Italia è quella dell'ATAC, dei sindacalisti dell'ATAC, dei dipendenti corrotti dell'ATAC, però c'è anche l'Italia dei Pinna, dei Farina, dei Maddao e delle storie che anche oggi siamo riusciti a raccontare. Vorremmo un'Italia in cui non ci fosse l'ATAC, che ci fossero solo i Pinna e i Maddao. Comunque, in bocca al lupo a tutti voi, traffico e visto che nessuna banca è riuscita a valutare, come spesso raccontiamo, una startup perché è difficile, perché è a rischio, perché non la sai valutare anche, perché non c'hai le risorse interne e le competenze, fra poco racconteremo dopo il traffico invece come le banche siano state brave a erogare crediti e prestiti. Si chiama Veneto Banca, siamo arrivati alla lapide sulla vicenda di Veneto Banca, perché oggi, come Scuola Popolare di Vicenza, è stato fissato il prezzo per l'aumento di capitale, praticamente azzerato il valore degli azionisti che le hanno comprate a 40 euro, hanno perso il 99,7% del capitale, perché quando c'è da prestare i soldi alle start-up, tutti attenti in banca, quando c'è da prestargli agli amici o per fare comprare le azioni o obbligare a comprare le azioni di i clienti per concedere un mutuo o un prestito, lì le banche invece sono attentissime. Traffico. Focus Economia. :18:20 allora, scrive un ascoltatore, ecco, bravo Barisoni, si è riuscito a dimostrare che i problemi di ATAC sono i sindacati. No, sei semplicemente ridicolo, no. Abbiamo detto che i problemi dell'ATAC sono la gestione dei dirigenti scandalosa, cacciati, inchieste anche dalla magistratura, dei corrotti interni, dei dipendenti ladri, degli sprechi, per non dire le tangenti pagate sulle forniture, raccontavano dei pneumatici, e anche di un numero di ore di permessi sindacali tale da dire che alcuni di questi sindacalisti si può dire sono fancazzisti? Si può dire che 120.000 ore di permessi sindacali all'ATAC, ossia il lavoro di 131.000 ore l'anno scorso, scusatemi, corrispondente al lavoro di 82 persone, sono troppe e costano all'azienda 3.800.000 euro per un'azienda in fallimento? Perché ti chiedi cosa hanno fatto di queste ore? Non è colpa dei sindacati, è colpa anche dei sindacati. Allora, andiamo alla borsa prima di arrivare a Veneto Banca, rapidamente con Guido Maurino. Giornata priva di molti spunti, meno 0,17% Milano, invariata Parigi, più 0,1% Francoforte. Mi concentrerei sui petroliferi. Guido, buonasera. Quindi sì, Saipem buonasera. Meno 2%, Eni meno 0,30% e su Fiat meno 1,60%. Vai Guido. Sì, per quello che riguarda Saipem ha ceduto l'1,99%, male anche Eni che ha ceduto lo 0,36%, me l'ha arrivato a perdere molto di più nel corso della giornata. Sostanzialmente il petrolio non ha tenuto quota $50 al barile e anche nei prossimi giorni si guarderà molto a cosa farà il prezzo del petrolio in vista della riunione dell'OPEC allargata anche all'Iran del prossimo 2 giugno. Importante è la quota dei $50, non solo simbolica, ma anche una quota che oltre il quale diventa conveniente produrre lo shale oil, soprattutto negli Stati Uniti. Per quello che riguarda Fiat Chrysler, ha ceduto l'1,66%, risentendo negativamente della notizia di nuovi richiami per 4,3 milioni di auto negli Stati Uniti. Si tratta di veicoli vecchi con più di 10 anni, a cui verrà sostituito l'airbag del passeggero nell'ambito di una procedura che riguarda un marchio giapponese, Takata, che forniva per questa vettura appunto gli airbag. Smentita invece l'esistenza di un dossier sia per UbiBank che per Banca Popolare Emilia Romagna su Veneto Banca. Ricordo che l'aumento di capitale di Veneto Banca partirà il 6 giugno, l'esordio in borsa il 28 giugno e soprattutto, poi vedremo se andrà a finire come in altri casi, ma soprattutto che l'aumento di capitale è garantito da Intesa San Paolo, ma non è escluso che avrà un ruolo anche il fondo Atlante. I migliori e peggiori oggi si chiamano Abitare In più 11,20%, Enervit più 6,30%, Metorius Capital meno 7,50%, Credit Agricole meno 5,60%, Visibilia Editore meno 4,30%. Faccio notare oggi che sul mercato londinese dell'AIM sono sbarcate due italiane con andamenti però abbastanza diversi, perché Industrial Stars of Italy ha debuttato con un calo del 2%. Invece il grafene made in Italy, grafene è definita anche la plastica del futuro, è costituito da un singolo strato di atomi di carbonio. Insomma, c'è un'azienda che si chiama Directa Plus, che ha sede a Lomazzo in provincia di Como, ha debuttato sull'AIM, appunto la borsa di Londra, e ha fatto un balzo del 30%. Il prezzo di collocamento era di 75 pence, è arrivata oltre una sterlina per azione. Andamento del tutto opposto, la battuta viene facile, invece quello deciso oggi per le azioni della quotanda Veneto Banca. I just hope in the money, money, money, money, money. this hope he ain't the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. Allora, i 120.000 azionisti della Popolare di Vicenza e gli 88.000 azionisti di Veneto Banca devono ricordarsi due nomi. Per Vicenza si chiama Gianni Zonin e per Veneto Banca si chiama Vincenzo Consoli. Ok, perché poi no, adesso se la prendono con... per carità. Però chi ha distrutto un totale di stiamo parlando tra quello che sto bruciato tra Veneto, tra Montebelluna e Vicenza, arriviamo quasi a 12 miliardi di veri risparmi andati in fumo, perché non solo le azioni della Pop Vicenza dal prezzo massimo di 62,50 euro sono andate a 0,1, oggi scopriamo anche che il prezzo minimo dell'offerta per collocare Veneto Banca sarà di 0,10 centesimi di euro per azione. E quindi chi l'ha comprata al valore massimo di 40,25 euro perde fino al 99,75% del capitale. Fabio Pavesi, insomma, dai, qua è la fotocopia di quanto è accaduto sulla Popolare di Vicenza. Sì, sono due storie gemelle, del resto la genesi è uguale per entrambe. Gestione scriteriata, credito facile, sofferenze viene nascoste nel bilancio, poi arriva la BCE e dice guarda, questa roba qui va svalutata, maxi perdite, valore dell'azione stabilite da Zonin il suo CDA per Vicenza e Consoli il suo CDA del tutto irrealistici, proprio perché non erano quotate. Adesso però la parola è al mercato, il mercato ha detto che la banca vale 10 centesimi, cioè il prezzo adesso lo fa il mercato per davvero. E infatti sia le banche che oggi dicono che non hanno nessuna intenzione di comprarsi Veneto Banca, sia la freddezza con cui è stato accolto un eventuale prezzo di collocamento la dicono lunga sulle condizioni delle due banche. Cioè Veneto Banca tuttora, nonostante le maxi perdite, ha 3,6 miliardi di crediti malati netti a bilancio su un patrimonio di 1,8 miliardi. Cioè, tuttora, nonostante le maxi perdite, sono banche, sia Veneto adesso che Vicenza, che hanno crediti malati pari al doppio del patrimonio. Ecco perché devono fare per forza l'aumento di capitale ed ecco perché a questo punto il mercato tiene basso il prezzo. È andata così. Hai fatto bene a ricordare le responsabilità del passato, che sono gravi e pesanti. Vabbè, anche perché venivano portati come grandi banchieri. Mi ricordo, stiamo cercando, se cerco di trovare un'intervista che realizzai proprio a Zonin anni fa, quando dice no, è meglio non essere quotati perché si è più liberi, invece la borsa ti si vede, si è più liberi di fare il prezzo che vuoi tu, perché nel 2014 la Popolare di Vicenza porta le azioni a 62,5 euro come valore, e il Consoli invece su Veneto Banca le porta 40 euro, ma ancora nell'aprile del 2015, quindi un anno fa, ecco dove c'è l'atto criminale dei vertici, a bilancio le azioni di Veneto Banca venivano valutate 39,5 sì. euro. E adesso scopriamo che un anno dopo valgono 0,1, cioè sì. il 99,7 in meno, o no? Sì, sì, ma... è così. Guarda che in un anno, se uno fa i conti, quell'azione valeva, dava un valore della banca di 4,9 miliardi. Oggi il valore della banca è 12 milioni di euro. Ma dov'è Consoli? C'è un abisso. Perché Zonin non è in Italia, mi risulta. Lo danno in Sudafrica. Ma Consoli dov'è? Consoli non si capisce, nel senso che Zonin è andato via dall'Italia, ha girato il patrimonio ai figli della sua azienda vinicola. Consoli non si hanno notizie. A Veneto hanno promesso di fare l'azione di responsabilità, mentre a Vicenza non è passata per l'astensione di metà dell'assemblea, che non ha neanche votato l'azione di responsabilità nei confronti di Zonin. Spero quantomeno, tutti quanti noi speriamo, che almeno un'azione di responsabilità il nuovo CDA di Veneto Banca la promuova nei confronti dei vecchi amministratori. Beh sì, almeno, cioè, almeno dopo la figuraccia fatta a Vicenza si riscatti almeno Montebelluna. Comunque mi dispiace chiudere la puntata della settimana con questa notizia, ma insomma... temevamo che sarebbe andata così, c'era chi sperava no, forse non faremo la fine della Popolare di Vicenza, invece mai così vicine sono state nella disgrazia Montebelluna e quindi Treviso con Vicenza. Fabio Pavesi, poi vedremo come andrà, appunto 6 giugno collocamento, vedremo se sarà anche lì una fotocopia di quanto è avvenuto per la Popolare di Vicenza. Intanto grazie, così come ringrazio come sempre per l'assistenza in redazione e in studio Mauro Del Corno e Barbara Bianchi, auguro a voi in ascolto un buon fine settimana, soprattutto per chi dovrà passare lavorando. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.